Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e bentornati alla finestra sul cortile, che da questa puntata va in onda ogni domenica alle 9:30. Mentre nel nostro paese lo scontro tra politica e magistratura è arrivato allo showdown finale, e forse può essere utile per una trasmissione culturale come la nostra provare a guardarsi indietro e intorno, andare a vedere come erano regolati questi rapporti tra giudici e capi di Stato o di governo nei secoli passati e negli altri paesi. Scopriremo così che i giudici erano in Francia, per esempio, già una casta potente durante l'Ancien Régime, quando la giustizia era amministrata non in nome del popolo, ma in nome del re. Potevano persino correggere le leggi e gli editti che il monarca promulgava e rispedirli al mittente con i loro emendamenti. Certo, di processare il sovrano non se ne parlava nemmeno, non era neppure concepibile. C'era un impedimento non legittimo, ma divino, un lodo celeste. Però perfino il potere dei monarchi assoluti doveva fare i conti con la magistratura. Di questo e di altri temi parleremo nella nostra puntata della finestra sul cortile, ma intanto sentiamo cosa prevede il menù di oggi. Francia. Il conflitto tra giudici e politica non è una novità, c'era già ai tempi della monarchia assoluta. Corea. Le politiche per le pari opportunità rischiano di isolare le donne. Inghilterra. Nel nome di Obama, in tutto il mondo aumenta il numero dei bambini chiamati Barack. Germania. Le patate di oggi, meno saporite ma più chic. Russia. Vita da cani. I randagi invadono Mosca e hanno imparato a salire e scendere dalla metropolitana. L'absolutisme et ses juges, l'assolutismo e i suoi giudici, è il titolo di un articolo di Katia Weidenfeld sulla rivista francese online La Vie des Idées. È un lungo articolo che in realtà è una recensione di un libro di uno storico francese, Jacques Crinin, intitolato L'état de justice, che esamina i rapporti tra giustizia e politica in Francia dal XIII fino al XX secolo. E il volume che è preso in esame, il primo che è uscito, perché sarà un lavoro molto ampio, riguarda l'ideologia della magistratura nell'Ancien Régime, cioè durante il regime della monarchia assoluta. E quello che emerge da questo studio, apprendiamo dall'articolo di Katia Weidenfeld, è che sostanzialmente l'impero della giustizia, il potere della magistratura che fa tremare i politici di oggi nei paesi democratici, non solo in Italia ma anche altrove, ha una lunga storia, addirittura affonda le sue radici a tempi in cui la giustizia in realtà era nelle mani del sovrano, cioè il sovrano aveva lui il dovere di amministrare la giustizia e delegava poi i magistrati ad amministrarla in nome e per conto di lui, e quindi di un potere investito di un'autorità divina come era appunto il monarca assoluto. Da questo studio emerge che in realtà questo potere era più formale che reale, questo potere del re, e che via via attraverso i secoli, già a fine 400, il monarca non poteva amministrare altro che il diritto di concedere la grazia, e mentre nel frattempo la magistratura si considerava ormai, come rappresentante del re, il vero la vera sede della giustizia. Erano gli esperti di diritto che dovevano decidere, dirimere le controversie, dovevano valutare e interpretare le leggi e addirittura potevano correggere gli editti e le leggi emanate dal re per dargli una maggiore chiarezza e applicabilità. Ma tutto questo fece sì che fino ancora alla vigilia della Rivoluzione francese il potere giudiziario aveva svolgeva una funzione quasi di pilastro, di sostegno dell'assolutismo, nel mentre che fissava dei freni e dei limiti. E quindi in qualche modo i magistrati agivano come dei freni a quel tentativo di riforma che va sotto il nome di dispotismo illuminato e che poi nel suo naufragio determinò l'esplosione della Rivoluzione francese. Ma ancora oggi, sottolinea Jacques Crinin nel suo libro, e sarà interessante vedere poi il seguito, la parte relativa agli anni più recenti, dice che l'attuale recupero di potere della giustizia, della magistratura in Francia è una manifestazione di questo impero della giustizia proprio nato sotto l'Ancien Régime. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite, che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi, il professor Francesco Paolo Casavola. Buongiorno. Buongiorno, vi saluto io tutti, saluto lei e tutti coloro che ci ascoltano, grazie. Buona domenica. Il professor Casavola è stato presidente della Corte Costituzionale, un insigne giurista e costituzionalista, ha presieduto anche fino a poco tempo fa l'Enciclopedia Treccani. Ecco, che cosa ci può insegnare questo rapporto così complesso che c'era tra la magistratura e il trono durante l'Ancien Régime rispetto a quelle che sono le nostre vicende di oggi? Il pregio di quest'opera di interrogazione, di esplorazione storiografica di Jacques Crinin sta nel ricostruire minuziosamente le vicende del rapporto tra la politica ed il potere del sovrano in Francia. Crinin mette in luce che dal XIII secolo in avanti il sovrano diventa sempre più un ignaro del diritto, e dunque certo, sono i giuristi, raramente era un giurista, esatto, danno un contenuto al potere sovrano. Certo. In qualche modo è giusto dire che questi esperti del diritto diventano bouche du roi, così come poi accadrà invece quando al posto del sovrano sale sul trono della sovranità, per questo aspetto, la legge emanata dai parlamenti, secondo il principio stabilito da Montesquieu nella tripartizione dei poteri, il giudice diventa bouche de la loi. Per il mondo antico è il supremo magistrato che detiene il potere dello Stato ad avere indissolubilmente annodato al suo potere di imperium quello di ius dicere, di dire il diritto. Quando si giunse al superamento perfino di questa fase arcaica nelle fasi molto più evolute della Repubblica Romana e si giunge al Principato, il principe ha l'ambizione di essere un giurista tra i giuristi, come in uno Stato, direi che dal punto di vista sociale è uno Stato aristocratico, quale quello che vive tra la Repubblica e il Principato, il diritto diventa, come risultato di una interpretazione della legge, un privilegio dei nobili. I giuristi appartengono prima a tutti alla nobiltà senatoria e poi cominciano ad essere reclutati anche nell'ordine equestre. Bene, come questi privati, perché in realtà sono i giuristi sono dei privati, interpretano il diritto nel dialogo orale con i loro consultanti mediante il responso, così il principe, ponendosi in una posizione simmetrica dei giuristi, rispondono alle richieste dei privati con il rescriptum. Noi ringraziamo il professor Casavola, grazie e buona domenica a tutti. Grazie, grazie a lei. Più spazi sicuri per le donne è la politica che sta seguendo il governo coreano proprio per evitare quella serie di aggressioni, di violenze nei confronti delle donne che ultimamente hanno molto destato allarme nella pubblica opinione. Sono stati addirittura introdotti dei posti auto destinati alle donne, dei posti sugli autobus destinati soltanto alle donne, addirittura delle fermate dei mezzi pubblici che sono riservate alle passeggeri di sesso femminile. Qui evidentemente siamo in un caso di discriminazione positiva, cioè quella che qualcuno vorrebbe sulle metropolitane milanesi con vagoni vietati ai clandestini, può servire invece per proteggere minoranze minacciate. Probabilmente a Roma dovrebbero introdurre dei bus e dei parcheggi riservati ai gay, e forse a Rosarno quelli per i neri. Ci spostiamo in Russia, dove a Mosca c'è sempre più preoccupante l'invasione dei cani randagi che spesso somigliano a dei veri e propri lupi e atterriscono la popolazione, ma inteneriscono anche i cuori di quelli che hanno care, insomma, le sorti degli animali. È un caso che viene raccontato sul Financial Times, è quello di un cane che si chiamava Malchik e che fu aggredito a morte e accoltellato da una modella, Yulia Romanova, per difendere il suo Staffordshire Terrier, cane molto piccolo che rischiava di essere azzannato. Ma questo cane è diventato un eroe, tanto che gli hanno fatto addirittura un monumento. Ci sono ben 35.000 cani randagi per le strade di Mosca, quasi 84 per ogni miglio quadrato. Forse i cani hanno almeno il vantaggio di essere liberi e di non morire di freddo avendo una pelliccia gratis, mentre molti russi fanno una vita da cani. Sta per nascerci un figlio e lo chiameremo Barack. Questa voga pare che si stia diffondendo a tutte le latitudini, non soltanto in America, dove ovviamente Obama gode, anche se di una popolarità purtroppo in decrescita, in calo negli ultimi mesi, ma insomma comunque è molto sostenuta, essendo l'inquilino della Casa Bianca, ma anche in altri paesi del mondo, dall'Africa all'Inghilterra. Questa usanza è molto diffusa in America già fin dal secolo scorso, perché per esempio il nome Franklin raggiunse un picco di popolarità nel 1933 quando Roosevelt conquistò la Casa Bianca, e il nome Dwight salì nelle quotazioni prima nel 1945 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e poi nel 1953 quando fu eletto presidente. Quindi questa tendenza è abbastanza diffusa. Del resto anche in Italia, se andiamo in Veneto, no, troviamo molte persone nate negli anni 20 che sono state battezzate con il nome di Firmato. E Firmato perché? Perché scambiavano il Firmato Diaz, che c'era al fondo del famoso bando proclama della vittoria dopo la prima guerra mondiale, firmato dal generale Diaz, per l'appunto, come se fosse il nome di battesimo del generale stesso. Dicsi che insomma ci fu un'ondata di Firmato, così come ci fu un'ondata di vittoria, e come negli anni 30 Molti furono battezzati col nome di Benito, ma certamente il successo che sta incontrando oggi il nome Barak va molto al di là di questi esempi storici e in qualche modo riflette quasi una tendenza, un'aspettativa messianica, quasi di tipo religioso, che forse è anche contenuta nel significato stesso, nell'etimologia del nome Barak, che vuol dire per l'appunto benedetto. E in qualche modo dicono, per esempio, alcune di queste persone intervistate da BBC News come un businessman keniota, dice: beh, per noi il nome Barack Obama rappresenta tantissimo, perché la sua famiglia viene da qui e perché insomma rappresenta in qualche maniera una grande svolta. E anche altri immigrati, per esempio di Newcastle, Inghilterra, due immigrati indiani provenienti da Calcutta hanno pensato di dare al loro figlio il nome di Barak perché lo considerano una svolta storica, che qualcosa di veramente grande è successo nel mondo. Che poi questa grande svolta si stia ridimensionando sotto i nostri occhi e stia cedendo il passo anche a un certo sentimento di delusione e di amarezza anche da parte di chi ha votato e sostenuto Obama, ecco, ciò non toglie insomma che questo alone di leggenda rimane anche inciso nell'anagrafe. Ma per parlare di questo curioso fenomeno abbiamo al telefono un ospite che salutiamo, Marco Belpoliti. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a voi. Marco Belpoliti, tutti lo conoscete, scrittore e insegnante, docente di sociologia della letteratura all'Università di Bergamo e autore, anche osservatore acuto della nostra quotidianità contemporanea, autore di un libro famoso che ha avuto un grande successo, Il corpo del capo, che pubblicato da Guanda l'anno scorso, che riguarda insomma il rapporto proprio tra il carisma e la fisicità anche di un leader politico, nel suo caso era il presidente del Consiglio Berlusconi. Ecco, ma Belpoliti, come giudica questa tendenza insomma di dare ai figli il nome di battesimo di uomini politici? Cioè, è un modo attraverso cui si partecipa di un'aura, di un'atmosfera che è quella della gloria, del successo, che poi può essere appunto di tipo politico, quindi diciamo più ideologica, più identificativa anche della propria collocazione, che so, religiosa, sociale, geografica, oppure invece può essere soltanto, diciamo così, un'ombra che si estende dal mondo dello spettacolo verso il mondo della vita quotidiana. Certo, ma un conto è dare ad un figlio il nome di uno che ha vinto i 100 metri e quindi è un risultato ormai acquisito, no? Un altro conto è dare il nome di un presidente degli Stati Uniti che ancora deve dare prova di quello che vale, no? Un po' come il Nobel per la pace alle buone intenzioni, no? Il rischio che poi gli alti e i bassi della storia pesino sull'identità anagrafica di una persona. Beh, da un lato insomma diciamo che il fatto che un nero sia salito alla Casa Bianca, abbia vinto le elezioni, questo già di per sé come dire basta a creare una fama imperitura, insomma nella storia ci sarà questo esempio di Obama. D'altro lato negli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, Andy Warhol, che non è soltanto un incredibile artista, ma era anche, come dire, una specie di psicologo della società americana, in un libro che si chiama America, un libro fatto di sue fotografie, certo, e varie considerazioni, diceva che in fondo in America ci sono due personalità che si identificano e che danno il tono della vita collettiva, sono gli attori e gli uomini politici. Noi sappiamo che Reagan era tutte e due le cose, è stato prima attore e poi uomo politico. Io credo che gli uomini politici vadano considerati esattamente come gli attori, siamo nel campo del divismo. Non c'è dubbio. D'altra parte, insomma, si potrebbe dire insomma, che Barak corrisponde al nome di Benedetto, e dato che anche il Papa è a suo modo un divo, ci dovrebbe essere un boom di Benedetto anche in Italia. Non so, non mi pare che questo accada. No, perché non è abbastanza esotico, come non credo che ci sia un boom di Silvio. Ecco, appunto, e questa era la domanda. Non credo che ci sia, adesso non voglio dire, qualcuno farà una ricerca, ma mi pare in giro, insomma, vedendo figli neonati di amici e non solo, insomma, il nome Silvio non credo che spopoli. Quindi il corpo del capo rifulge, ma il nome un po' meno, ecco. Forse siamo, perché siamo globalizzati anche nei nomi, invece di guardare alle celebrità di casa nostra tendiamo un po' a guardare alle celebrità esotiche, so, così come una volta c'è stata un'ondata di Sue Ellen, perché guardavano tutti le telenovelas e c'erano queste attrici americane, insomma, no? Anche adesso in fondo è interessante che i nomi dati ai bambini seguono, così almeno ci dicono i sociologi della vita quotidiana, seguono delle ondate che indicano dove in quel momento la società o i suoi membri, insomma, stanno guardando, ecco. Il cinema, poi la televisione, credo che questo aspetto dello spettacolo si estenda ormai anche alla politica, anche a un divo come Obama. Grazie a Marco Belpoliti, buona domenica, a presto. Buona domenica anche a voi. E adesso andiamo in Germania, dove i consumatori prediligono soprattutto quelle di gentile aspetto, dall'ovale allungato e con una pelle molto liscia. Non stiamo parlando di donne o di modelle, ma di patate, che sono, per l'appunto, devono avere queste caratteristiche per essere preferite dai consumatori tedeschi. Così leggiamo sulla Süddeutsche Zeitung, e i contadini tedeschi confermano queste preferenze. Il loro unico imperativo ormai è produrre in grande quantità tuberi sempre più chic, ma tutto ha un prezzo, è quello della patata modello, anzi modella, e di avere un sapore sempre più inconsistente perché troppo manipolata. Di ciò tuttavia non si cura il Ministero bavarese per l'agricoltura, ci informa Alessandro Melazzini da Monaco. Il Ministero, per difendere i contadini del suo land dall'invasione delle affascinanti patate francesi, ha diffuso per le campagne nei dintorni di Monaco fotografie che ritraggono la patata ideale, quella di una bellezza tale da saper riconquistare i tanti clienti sempre più irretiti dal fascino degli ortaggi stranieri. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima alle 9:30 del mattino. A presto, buona domenica a tutti.